Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo di Roma, del decreto Salva Roma, il secondo decreto Salva Roma bocciato dal Parlamento. Ieri abbiamo già fatto il punto sui bilanci passati della gestione del Comune di Roma, che obiettivamente fanno impressione. Un debito pregresso ormai di oltre 10 miliardi, si dice che stia viaggiando sui 12 miliardi di euro. Faccio notare che un debito del genere è un debito di un piccolo paese dell'Europa, ecco, non di una città come Roma, ma soprattutto il deficit dell'anno scorso, 900 milioni di euro, e poi alcune vicende su cui ci siamo concentrati ieri, per esempio la gestione disastrosa dell'ATAC, l'azienda dei trasporti romana, disastrosa sul fronte economico sicuramente, visto che ogni due anni tocca ricapitalizzare, l'ultima volta due anni fa per 1 miliardo, ma soprattutto disastrosa anche nella gestione del personale. Non se la devono prendere gli autisti, nessuno li ha condannati, dico semplicemente che avere il 10% di assenze per malattia al giorno su 12.000 dipendenti, sono circa 1.200 che se ne stanno a casa ogni giorno con certificati medici, è un po' tanto per essere buoni. Ma sappiamo che l'ATAC è anche coinvolta in inchieste della magistratura, perché insomma, diciamola tutta, lì le precedenti gestioni hanno sempre collocato i loro amici, e non è una novità che alcuni sindaci abbiano il vizietto di mettere gli amici. Non c'è nulla di male nel mettere qualcuno che si conosce, nel cooptare qualcuno che si conosce per gestire una società partecipata, se sei un sindaco lo fanno in tutti i paesi, però il problema è come lo selezioni: solo perché è tuo amico, perché militava nel tuo partito, perché da giovani andavate a fare le manifestazioni assieme, oppure perché è un bravo manager e ha dimostrato di saper far bene. Questo è il punto. Se poi lo conosci personalmente ed è per questo che lo stimi come manager, va benissimo, a mio avviso, è inutile fare troppo le verginelle. Il problema è che la selezione è stata fatta in molte municipalizzate solo per dare un posto o ai trombati alle elezioni o ad amici degli amici a cui scambiare o ritornare un favore. Però oggi ci concentreremo anche sullo sviluppo futuro. Perché? Perché questa mattina ho ospite di Giovanni Minoli qui a Radio 24, a Mix 24, il sindaco di Roma, cioè Marino, ha detto: senza risposte io da domenica blocco la città, e quindi le persone dovranno attrezzarsi, fortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu, loro potranno continuare a girare, i romani non potranno girare. Questa cosa ha fatto girare qualcos'altro al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, perché la telefonata tra Marino e Renzi è stata, a detta di tutti, energica, a detta delle fonti della Presidenza del Consiglio, energica, ma soprattutto abbastanza tesa. Non è piaciuta la dichiarazione del Sindaco di Roma, e l'ascolteremo chiaramente. Però, ripeto, al di là del confronto con Renzi, il problema vero è come sta andando il bilancio 2014, perché Ignazio Marino non ha nessuna responsabilità sui bilanci precedenti, è vero, però adesso vediamo se nel frattempo ha approntato un bilancio un po' in miglioramento, qual è la progressione di questi conti e che cosa potrebbe decidere il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché ieri ha detto il governo che vi sarà un decreto in cui dentro confluiranno anche le iniziative, per esempio sull'Expo. Questo per quello che riguarda uno dei temi della puntata. L'altro tema riguarderà invece una buona notizia, perché è proseguita anche oggi la serie di risultati positivi per il collocamento dei titoli di Stato italiani. Ieri i bot a 6 mesi avevano toccato un record storico negativo, ma nel senso come rendimento negativo, che è una buona notizia, una notizia positiva. I rendimenti erano scesi allo 0,45%, pensate che solo a dicembre erano quasi doppi i rendimenti, allo 0,82%, vuol dire che ci costa sempre meno trovare finanziatori per il nostro debito, oggi collocati altri 3 miliardi, ieri collocati 8 miliardi e mezzo, oggi collocati 3 miliardi di nuovi titoli a 5 anni, con rendimenti di nuovo a minimo record, il 2,14%. Collocati anche 4 miliardi di euro di BTP a 10 anni, anche in questo caso il rendimento è molto molto basso, al 3,42%, è il livello più basso dal 2005. Pensate che solo a dicembre ci costavano i BTP, collocare i BTP a 10 anni ci costava mezzo punto in più. Lo spread, alla luce anche di questo, è calato lievemente, ha agganciato quello spagnolo, quindi noi la Spagna rispetto alla Germania abbiamo la stessa differenza, 191 punti base, è un ottimo livello anche questo, se ci ricordiamo da dove venivamo. E poi appunto BTP 10 anni sotto il 3,5%, le aste sono andate molto bene, per cui è molto buona anche la domanda. Ecco, visto che non è che la situazione italiana sia cambiata, già io capisco l'effetto Renzi, ma dobbiamo ancora verificare gli effetti di Renzi, cercheremo di capire perché ci sia questo atteggiamento così positivo, non che sia un male, ma vorremmo capire perché nei confronti del debito italiano, visto che un anno fa ancora si ragionava se ce l'avremmo fatta a tenere il nostro debito, 2 anni fa sembrava che fossimo sull'orlo del baratro, lo eravamo come rendimenti a fine 2011, inizio 2012. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi concluderemo di nuovo con un tema che ci sta molto a cuore, perché è un tema fondamentale per capire se ce la faremo o no a tornare a crescere. Il tema dei rapporti con l'Europa, nel giorno in cui Angela Merkel, devo dire onore al merito, è andata alla House of Commons, alla Camera dei Comuni a Londra, tutti si aspettavano che facesse, come spesso fanno i politici quando vanno all'estero, lisciasse un po' il pelo agli inglesi, è stata durissima, ha detto: chi si aspettava che io venissi qua per essere accomodante si sbaglia, l'Europa non può pagare per la permanenza della Gran Bretagna nell'Europa. Se la Gran Bretagna vuole restare nell'Europa, ci resti in maniera proattiva, se no non saremo noi a pagare questo conto. La Gran Bretagna vuole sconti, insomma da sempre gli inglesi hanno un atteggiamento molto, posso dire anche un po' ipocrita, perché poi quando intere parti del paese sono finite sott'acqua 2 settimane fa, hanno dovuto chiedere l'aiuto dei soldi europei, ben venga, no? Esistono anche per queste cose i soldi degli altri partner europei, però insomma fa sempre finta che l'Europa sia solo un coacervo di norme burocratiche e null'altro. Insomma, vediamo un po', andiamo a vedere cosa è successo nella crisi del 2008, e il grande epicentro del virus si chiamava, oltre che Wall Street, anche City di Londra, e andiamo a vedere come la Gran Bretagna faccia assolutamente i suoi interessi, i suoi comodi, quando c'è da cercare di riformare la finanza, difende comunque le grandi banche d'affari, difende comunque le transazioni finanziarie, è contro qualunque regolamentazione e tassazione della finanza, per cui insomma no, non è che proprio, e devo dire anche la Merkel onora il merito, è andata lì e gliela dette, non gliela mandate a dire, come dicono a Roma. La borsa come va? Meno 0,32% Milano, meno 0,60% Francoforte, più 0,12% Parigi, invariata Londra, l'America più 0,30%, Telecom Italia, la Telecom Novelas, come l'abbiamo chiamata, visto che tutto ruota anche attorno a Team Brasil, meno 3,76%, Ansaldo meno 2%, Prismian meno 2%, Ferragamo meno 1,70%, Fiat meno 1,40%, CNH Industrial meno 1,30, Finmeccanica meno 1 come Mediolanum. Fronte opposto, A2A più 2,90, il 2,80 lo guadagna Monte dei Paschi, l'1,76 la Pop Milano, l'1,40 UbiBanca e la Popolare Emilia Romagna, l'1,20 Mediobanca, G-Tech più 0,80%. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Intanto subito un aggiornamento, adesso ne parleremo. Matteo Renzi mi ha assicurato che stanno lavorando in queste ore nella direzione di un decreto legge, così poco fa il sindaco di Roma Ignazio Marino. Noi invece continuiamo con le notizie in breve di questa giornata. Al di là della borsa, segnalo che il numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, ha detto i tassi ha confermato che i tassi bassi resteranno bassi in America finché la disoccupazione non scenderà sotto il 6,5%. È un sogno questo di avere anche noi una BCE che possa, e Mario Draghi lo farebbe pure, parlare in questo modo, dire finché la disoccupazione europea non è scesa sotto una certa soglia noi terremo i tassi bassi. La tensione in Ucraina, sì, era mitico ieri il presidente dell'autorità per l'energia, Bertone, che ha detto no, ma problemi sull'approvvigionamento del gas non ce ne sono perché marzo ormai si va verso la fine dell'inverno ed è stato un inverno mite, voglio dire, ho capito, non è che adesso andiamo in base alle previsioni meteo, decidiamo se ci sono problemi o no. Ma detto ciò, in Ucraina la situazione, come avete visto, è ancora di altissima tensione perché il Parlamento della Crimea ha assicurato il governo locale, la Russia si appresta alle manovre militari che già annunciavamo ieri, 150.000 uomini, ha fatto alzare i cacci sul confine, Kiev ha convocato l'incaricato d'affari di Mosca e ha fatto sapere che considererà come un'aggressione ogni movimento di truppe in Crimea. Però Yanukovych ha chiesto aiuto a Mosca, io sono ancora il presidente, per cui insomma, e tra l'altro la NATO ha messo in guardia il Cremlino, non ha alzato la tensione. Però Yanukovych, di cui abbiamo scoperto questa sobria e molto elegante residenza secondo i migliori stili, diciamo, dei dittatori o degli oligarchi anche di altri paesi. Secondo il candidato premier Arseniy Yatsenyuk, avrebbe sottratto 70 miliardi di dollari dalle casse dello Stato per trasferirli negli ultimi tre anni su conti correnti all'estero. Chissà dove. Vabbè. Brasile, segnale di ripresa dell'economia brasiliana che invece aveva avuto negli ultimi mesi una battuta d'arresto. Il Brasile infatti, il PIL brasiliano è cresciuto del 2,3% l'anno scorso contro un deludente 1% nel 2012. La Spagna invece, dopo che Rajoy aveva appena fatto in tempo a festeggiare siamo la nuova Germania d'Europa, io dico sempre state tranquilli, mi ricordo quando la Spagna festeggiò il sorpasso sull'Italia, poi esplose la bolla immobiliare, è cresciuta nel quarto trimestre dello 0,2%, meno di quanto stimato, e i consumi privati leggermente in aumento, ma le esportazioni più 0,8, per cui una Spagna che cresce, per carità, ma meno del previsto, mentre in Germania continuano ad andare molto bene i dati sulla disoccupazione, il tasso di disoccupazione è al 6,8%, 14.000 disoccupati in meno, è il terzo mese consecutivo in miglioramento. Forse per questo che adesso forse capisco, siccome i disoccupati in Germania sono già ai livelli che vorrebbe la Yellen in America, ecco perché da noi non se ne parla quando si parla della Banca Centrale Europea. Ma dicevo, visto che parlavamo degli inglesi, sì lo so, infatti cercheremo di fare un approfondimento anche su questo, perché gli inglesi sono sempre molto bravi nel guardare quanti soldi danno alla oil belt, alla cerchia dell'olio, alla cintura dei paesi dell'olio, però si dimenticano quanti soldi arrivano, la PAC, la politica agricola comunitaria, sovvenziona anche gli inglesi. E ci fu il famoso patto della tace per cui gli inglesi pagano meno di altri paesi. Attenzione, perché sennò, per carità, uno esca anche dall'Europa, volentieri, se dall'Europa, loro non sono nell'euro, inutile che mi scriviate, non c'entra niente l'euro con l'Inghilterra, abbiate pazienza. Dicevo, dall'Inghilterra arriva la notizia che la Royal Bank of Scotland ha chiuso il 2013 con una perdita netta di 9 miliardi di sterline. sono circa 11 miliardi di perdita rispetto ai 6 miliardi di sterline del 2012, ci sono circa 11 miliardi di euro di perdita. E il numero uno della banca scozzese, che è Ross McEwan, ha annunciato un piano di ristrutturazione. Versace, ve lo hanno raccontato i nostri GR, era già una notizia che avevamo anticipato, un altro marchio non se ne va in questo caso, il fondo Blackstone, scusatemi, si compra il 20% di Versace e mette nuovi capitali in Versace per 150 milioni di euro, tra l'altro acquista 60 milioni di euro di azioni da GV, la holding il cui capitale è diviso tra Allegra, Donatella e Santo Versace. L'intera Versace, vista l'operazione, sarebbe quindi valutata in 1 miliardo di euro. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Dicevo che parleremo anche dell'Europa perché riprenderemo un commento di oggi su Sole 24 Ore a opera di Roberto Perotti, uno degli economisti più seri che ci sono in questo paese, anche perché parla solo quando vede le cifre, ha analizzato, l'abbiamo fatto con lui parecchie volte, i costi della politica, gli sprechi della politica. Oggi ha una proposta a mio avviso molto molto condivisibile per alcuni punti, cioè per ridurre il cuneo fiscale sacrifichiamo anche i fondi dell'Unione Europea, alcuni di questi fondi. Devo anche dire una cosa, che da sempre le imprese hanno fatto notare a tutti i governi, compreso a questo, che sarebbero disponibilissime a rinunciare a tutti gli incentivi alle imprese, a patto che questi incentivi venissero buttati nella riduzione del cuneo fiscale, anche perché sono incentivi che vanno a imprese partecipate dallo Stato, non a imprese private. E quindi quella è un'altra soluzione. 349, dicevo, 238-6666 per i vostri sms. Partiamo però subito con Roma, è la prima grana, si può dire, vista l'ammontare anche delle cifre in campo, per il neo governo Renzi. Domenica blocco la città. Dica una cosa precisa. Quindi le persone dovranno attrezzarsi, sfortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu, loro potranno continuare a girare, i romani invece non potranno girare. I soldi che sono in quello che voi giornalisti avete chiamato Salva Roma sono soldi delle tasse dei romani che devono essere restituiti ai romani. I romani stanno pagando per... Glieli vogliono ridare? Non ce li hanno ridati perché su quelli... E allora? E allora ce li devono ridare. Allora, un po' strano il sindaco Marino oggi con Giovanni Minoli qui a Radio 24, Mix 24. Che insomma, vabbè, intanto blocco Roma e vabbè, te credo che poi Renzi sia molto irritato al telefono. E poi io questa cosa dei soldi che devono arrivare a Roma col decreto Salva Roma, che sono dei romani, è una cosa un po' strana, perché in realtà il buco fatto non dai romani, ma dai politici romani nella gestione del comune di Roma è un buco che ci accogliamo tutti quanti. Marina, ma che dice? Abbi pazienza, non è che c'è una semplicemente bastino le addizionali. Il comune di Roma ha 10 miliardi, un po' di più probabilmente, di debito, ha fatto 900 milioni di deficit l'anno scorso e mancano in questo momento all'appello 485 milioni di euro. Con il Salva Roma sarebbero stati scaricati sulla gestione commissariale, 320 nel bilancio già approvato del 2013 e altri 165 in quello del 2014. Solo che quello, l'immagine che Marino ha voluto dare, per quello dico che mi sembra un po' così, è quella di una Roma che domenica si bloccherebbe, no? Perché bloccata, devastata, tutti i servizi essenziali sospesi, dal trasporto pubblico alla raccolta dei rifiuti, dall'illuminazione in strada al riscaldamento degli uffici pubblici, decurtazione del 40% della busta paga dei dipendenti, a rischio anche la santificazione di Papa Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II, attesa per il 27 aprile. Insomma, mi è sembrato obiettivamente un po' un ricatto al governo. Non è colpa del governo se il Parlamento legittimamente ha bloccato e non ha fatto passare il Salva Roma. Laura Di Pillo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Laura, tu che sei una grande conoscitrice anche delle vicende dei conti del Comune di Roma, aiutaci a capire una cosa, poi dirò io due paroline sull'ATAC, però non è sicuramente colpa di Marino quello che è stato il bilancio degli anni scorsi, ma intanto come potrebbe uscirne il Ministero dell'Economia e Finanze? E in secondo luogo, poi ci arriviamo, qual è la tendenza di questo bilancio? Perché è vero che Marino non ha colpa, ma quantomeno non deve aggravare la situazione. Partiamo dalla prima, il MEF. Sì, diciamo che in queste ore si lavora alacremente al MEF, che sarebbe il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma anche a Palazzo Chigi, e ovviamente con gli occhi vigili e attenti del Quirinale, per cercare di trovare la quadra su questa situazione. Oggi, l'hai detto tu, Marino ha annunciato il blocco dei servizi della città da lunedì, sicuramente è stato un annuncio molto forte, e in realtà ha voluto sottolineare una posizione di grande difficoltà dell'amministrazione capitolina. Lui poi si è un po' ripreso, ha detto: sono fiducioso in Renzi, il governo fa sapere che lavora ad un nuovo decreto. Che cosa stanno facendo? Probabilmente sarà un nuovo decreto che approderà domani in Consiglio dei Ministri, credo domattina, e nell'atto dovrebbe esserci, tra le altre cose che conterrà questo decreto TASI, una norma che sostanzialmente va a salvare gli effetti del Salva Roma 2, perché ricordiamo che il bilancio 2013 del Comune è stato approvato grazie ad una cifra che era stanziata dal Salva Roma e quindi ha consentito di evitare il commissariamento. Questa norma poi dovrà fare, insomma, ci sarà anche una seconda norma che permetterà al slittamento dell'approvazione invece dei conti 2014 al 30 giugno. Questo per dare l'opportunità al governo e all'amministrazione di trovare una strada diversa, perché chiaramente i contenuti dei due decreti che sono stati rigettati non possono essere reiterati, è banale, è normale, ma è così. E quindi bisognerà trovare nuove strade, ma garantire che la città non vada in default. Ed è un'impresa non facile, difficilissima, perché come dicevi tu, prima per il 2013 Marino si è trovato davanti ad un disavanzo di 860 milioni, per il 2014 il disavanzo iniziale si parla di una cifra che supera il miliardo, quindi diciamo, sì, però, che scusami, Marino, Laura, ha tutti i motivi per arrabbiarsi. Sì, peggio, allora, ha tutti i motivi per arrabbiarsi, però ci deve dire anche cosa sta facendo. Io non immagino un Marino, vedi che c'è Marino, com'è che faceva quella canzone, però non immagino un Marino che possa essere salvifico, ma almeno diciamo correggere la curva e la tendenza, sì. Dopodiché molti mi chiedono se si può fare causa ai sindaci precedenti, alle gestioni precedenti. Non lo so se ci possa essere una chiamata di responsabilità, non è prevista dalla legge. Allora, diciamo, gli elettori che poi possono ricordarsi chi erano i sindaci precedenti. Sì, scusa Sebastiano, l'obiettivo che tu hai evidenziato prima è quello di affrontare la situazione, ma certamente non peggiorandola. Ricordiamo il debito di Roma, a cui tu facevi anche riferimento, che è un debito enorme, cioè sono oltre 12 miliardi ed è una gestione, è quasi una manovra finanziaria di tutta l'Italia in un anno. Esattamente. Quindi per gli ascoltatori, forse non tutti sanno che a Roma c'è una situazione finanziaria particolare, cioè c'è una gestione straordinaria affidata al commissario che dal 2008 segue quindi la copertura del debito che il Comune di Roma aveva maturato fino a quella data, e dal 2008 in poi c'è una gestione ordinaria ed è, diciamo, una situazione del tutto straordinaria. Ogni anno, per ripianare questo debito, il Comune, quindi Roma, lo Stato e il Comune versano 500 milioni l'anno, di cui 300 dallo Stato e 200 dal Comune, e una parte dell'IRPEF, che è a Roma c'è una addizionale alta, lo 0,9%, si è anche discusso della possibilità di aumentarla, e probabilmente sarà anche così, anche se il sindaco ha sempre negato questa ipotesi, va proprio a quello scopo, cioè va proprio a finanziare questo buco. Chiaro. Quindi la situazione non è per niente facile. Ma non sarebbe meglio un commissariamento? Ma molti dicono di sì, di fatto l'uscita ieri di Marino, l'arrabbiatura di Marino oggi, dice io non metto la faccia dinanzi a questo. No, nel senso che fosse politicamente anche per Marino. I governi precedenti hanno fatto una scelta diversa però, perché accettando una gestione commissariale che è affidata a Barazzani, di fatto hanno deciso di non mandare la capitale in default, anche se tecnicamente poi per tante ragioni lo è. C'è l'operazione che dovrà fare Marino, secondo me, e il governo Renzi, perché in questo forse Marino ha ragione, serve comunque, un'amministrazione deve avere la possibilità di contare su risorse certe anno per anno, e che si tratta comunque della capitale di un paese. Ecco, dimmi l'ultima cosa, ma ha ragione Marino quando dice questi sono soldi nostri, dei romani? Perché in parte da quello che tu racconti sì, ma in parte sono soldi di tutti gli italiani. No, in parte sono anche soldi degli italiani, però detto questo, anche se sono soldi dei romani non vanno buttati, anzi, cioè, certo, voglio dire, è necessaria una correzione di rotta urgente e immediata. Tutte le operazioni che sono state chieste, il piano di rientro che era già previsto nel precedente decreto Salva Roma, e su questo io sono certa che il governo Renzi sarà proprio nel decreto che verrà appunto varato, detteranno le condizioni per questo, diciamo, per questa riorganizzazione, perché ci dovrà essere una riduzione della spesa, ci dovrà necessariamente essere un efficientamento delle entrate, si parla anche di tagli ai contratti di servizio per le società municipalizzate, e insomma questa è una grana per Roma e per Marino, ma non è l'ultima. Ricordiamoci gli scandali di Parentopoli degli anni passati, ricordiamoci lo scandalo di Malagrotta, che è stata la discarica più grande d'Europa aperta fino adesso, a... Guarda, dopo il metro città volevo raccontare infatti qualche chicca sugli scandali dell'ATAC, la mega truffa e Parentopoli, mi hai anticipato, perché poi anche attraverso queste gestioni, non solo, ma anche attraverso queste gestioni fatte in maniera clientelare, si realizzano debiti di questo genere. Dopodiché ha ragione chi dice ricordi i sindaci, abbiamo già detto Rutelli, Veltroni, Alemanno, per cui ognuno si piglia le sue responsabilità. L'unico che non ha responsabilità su questo buco, obiettivamente, è Ignazio Marino, che è appena arrivato. Grazie, Laura Di Pillo. Con Sebastiano Barisoni, non so se e quanto abbia contribuito al buco di Roma e soprattutto al buco dell'ATAC, perché c'è un buco nel buco, non so se esista in fisica un buco nel buco, ma a Roma sicuramente sì, perché l'ATAC da sola non ha mai chiuso in 10 anni un bilancio inutile, mai. È costata ai romani e agli italiani 6 miliardi e 400 milioni di euro tra contributi pubblici e perdite in 10 anni, l'ha pubblicato il calcolo Sole 24 Ore qualche settimana fa, e praticamente 2 anni fa è stata ricapitalizzata per 1 miliardo di euro, e se va avanti così, se l'ATAC fa altri 2 anni come il 2013, bisognerà ricapitalizzare di nuovo, quindi stiamo buttando via i soldi. Allora, ieri me la son presa con i dipendenti, o meglio con i 1400 dipendenti che ogni giorno su 12.000 presentano un certificato medico all'ATAC perché stanno male, e poi c'era quella vicenda pazzesca, me l'avete tagliata, quella degli autisti che non possono, che devono stare a casa pur essendo di lavoro perché mancano i mezzi, e pensate che comunque su 6.500 autisti ogni giorno ne restano a casa 970 in malattia. Però adesso vorrei raccontare un'altra cosa dell'ATAC, che in realtà l'abbiamo già raccontata nei mesi passati, la mitica Parentopoli dell'ATAC, perché non solo l'aumento del biglietto è costato ai romani, ma non ha portato un beneficio, anche perché quando tu hai 70 controllori su 12.000 dipendenti è difficile che portino un beneficio. Non solo l'ATAC guadagna molto poco dei biglietti, 250 milioni di euro su 1 miliardo di ricavi complessivi. Pensate che l'azienda di trasporti londinese, che ha 4,8 miliardi di ricavi, ne ha 4 dai biglietti, ok? Per cui il Comune di Roma riesce ad avere dai biglietti un quarto di tutti i ricavi complessivi. A Londra siamo al 70%. A Parigi, su 4 miliardi 9 di ricavi, l'azienda di trasporti ne ha 2,3 miliardi dei biglietti, cioè la metà, almeno il 50%. Ma voglio dire, chissà se nell'allegra gestione dell'ATAC c'entri anche quanto operato da Francesco Bianco, che aveva un passato da manager di tutto rispetto, infatti apparteneva ai Nuclei Armati Rivoluzionari, i NAR, quelli che ricorderete di estrema destra, ricordate chi ha una certa età, messo lì da Gianni Alemanno, accusato di una truffa da 70 milioni di euro l'anno, in cui avrebbe avuto un ruolo anche la criminalità organizzata, e perpetrata questa truffa con biglietti falsi stampati da ATAC, girati ai rivenditori, che consentivano appunto, secondo l'accusa, di accantonare 70 milioni di euro all'anno in nero, e perpetrata mentre l'ATAC stava collassando su se stessa. Tra gli innumerevoli casi si distinguono quelli dell'ex amministratore dell'ATAC, ma qui le azioni di responsabilità però si possono fare, non è mica un sindaco, Adalberto Bertucci, che numero uno è, non è l'unico per carità, però ha fatto assumere all'ATAC il figlio, il genero, la cognata del figlio, il nipote, l'ex segretaria, il figlio dell'ex segretaria, la nuora dell'ex segretaria, la figlia della segretaria del figlio, oltre all'ex vice sindaco di Guidonia e a quello di Montelibretti. Oh, qua ci vuole Levi-Strauss sull'analisi dei rapporti di parentela, che non sto capendo niente. Allora, il figlio ha fatto assumere il genero, mi perdo sui rapporti di parentela, figlio, il genero, la cognata del figlio, e già inizio a incasinarmi, il nipote, l'ex segretaria, il figlio dell'ex segretaria, la nuora dell'ex segretaria, la figlia della segretaria del figlio, non ci sto capendo più niente, oh, la figlia della segretaria del figlio, ok, adesso ci ho capito, vabbè. E che rapporto aveva la figlia della segretaria del figlio con il figlio? E meno male che non c'aveva un amante, non era separato, non aveva una grossa famiglia, perché sennò avevamo occupato tutti i posti dell'ATAC. Mitico Bertucci, bravo, continui così, azioni di responsabilità si possono fare? Però c'era stato anche l'assessore alla mobilità della Giunta Alemanno, Sergio Marchi, che ha piazzato in ATAC 8 protetti, tra cui l'ex fidanzato di un collaboratore, per cui... E poi il coordinatore del PDL romano Gianni San Marco ha fatto entrare in ATAC come segretaria. A questa me la ricordavo, perché poi sono cose che abbiamo già detto. Allora, sì, il coordinatore del PDL romano Gianni San Marco ha fatto entrare in ATAC come segretaria personale del direttore industriale, cioè una carica molto operativa, una 25enne cubista. E che ci volevi fare sull'ATAC con la 25enne cubista? Non lo so. Abituata a scansare i tram e gli autobus affollati, vabbè dai. Eleonora Micheli, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Adesso con te parliamo di borsa, meno 0,38% oggi Milano, invariata Parigi, meno 0,76% Francoforte, più 0,30% Londra, più 0,20% anche l'America. Molto male oggi Telecom Italia. La Telecom Novelas, come l'abbiamo chiamata, meno 4,30%, partiamo da lì dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Strade in diretta. Buonasera, code di 3 chilometri che si sono resi necessari dopo un incidente per lavori sull'autosola in direzione Napoli tra la diramazione Roma Sud e Colleferro. 2 chilometri di coda dietro un veicolo in panne sulla 14 Adriatica tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione Bologna. Traffico a rilento sulla 7 Milano-Genova per un incidente tra Genova-Bolzaneto e bivio per la 12 Genova-Livorno in direzione del capoluogo ligure. Sul resto della rete code per i soliti spostamenti pendolari in uscita dalle grandi città. Infine segnaliamo forti ritardi sulla linea ferroviaria Palermo-Messina a causa di un guasto tecnico nella stazione di Bagheria. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Buone notizie per chi, avendo bisogno del dentista, fosse alla ricerca di terapie eccellenti, rapide e indolori. La prima riguarda la soluzione di alta tecnologia che oggi amicodentista.com, esperto italiano di implantologia, mette a disposizione di coloro che ne avessero bisogno. È il Toronto Bridge, protesi fissa su impianti che riabilita l'arcata dentale in 24 ore con sicurezza, minimo disagio e garanzia di durata. La seconda buona nuova è che grazie alla politica low cost di amicodentista.com si spende meno che nell'est Europa, senza rinunciare alla qualità dell'odontoiatria italiana. Per info numero verde 800 08 8315 o sul sito amicodentista.com. Focus Economia. Questa è per la cubista dell'Atac. Ragazzi, cosa dobbiamo fare? Cioè, ne stiamo raccontando da 2 anni, poi ti accorgi che l'Atac sprofonda e deve essere ricapitalizzata per 1 miliardo ogni 2 anni, no? Ma Marino non ha colpa. Ma dov'erano gli uomini di destra di una volta, quelli veramente duri e puri? Allora Micheli, restiamo sulla borsa, voilà. Telecom Italia meno 4,30%, che succede nella Telecom Novella? Sì, oggi era in corso il consiglio di amministrazione, iniziato alle 2:30 e terminato poco fa, soprattutto si faceva ovviamente il punto su quella che è la situazione dell'azienda telefonica, si sarà parlato anche sicuramente del Brasile, ma quello che è stato analizzato in particolare è la corporate governance della società, cioè il numero dei componenti che formano il consiglio di amministrazione, soprattutto a nome di chi verranno nominati, cioè delle dei soci di minoranza piuttosto che invece di Telco, il socio che controlla il 22,4% del capitale. In più un'altra tegola oggi è piombata sopra la Telecom, è stata l'agenzia di rating Fitch che questa mattina ha indicato che c'è scarso margine per la società di mantenere il rating, sì. Probabilmente verrà infatti peggiorato, e questo perché l'agenzia teme che ci sia un peggioramento dei margini. Del resto anche i manager affermano sempre che l'elevata concorrenza tra compagnie telefoniche fa sì che ci siano tante offerte e quindi margini. Si chiama concorrenza, lo capissero anche i manager un giorno. Ansaldo STS meno 2,20%, andiamo rapidi. Oggi il Sole 24 Ore pubblica una notizia su Ansaldo Breda, le due società del gruppo Finmeccanica che il numero uno Pansa ha confermato ai nostri microfoni 2 settimane fa di voler cedere. Dicevo, Ansaldo Breda avrebbe accusato nel 2013 perdite per oltre 0,5 miliardi. Ansaldo STS e Finmeccanica che perdono 1,20. Ma sì, oggi è andato male tutto il gruppo Finmeccanica, perché anche le perdite di 0,5 miliardo di Ansaldo Breda sono ben superiori a quelle che avevano messo in conto gli analisti. Peraltro Ansaldo Breda dovrebbe essere una società in via di cessione, ma ovviamente con questi numeri sarà ben difficile. Sempre secondo il Sole 24 Ore dovrebbe essere nominato a capo dell'azienda un nuovo vicepresidente, presidente Amedeo Caporaletti. Questo è stato visto magari come un segnale, un ultimo tentativo per rilanciare il business. Ovviamente ne hanno pagato le conseguenze, come ho detto, Finmeccanica, anche Ansaldo e STS, che hanno numeri ben diversi, soprattutto Ansaldo, anche perché in questo caso pesa comunque l'incertezza legata al nuovo governo Renzi. Bisognerà vedere infatti la posizione di Matteo Renzi nei confronti delle aziende statali e delle cessioni e quant'altro. Beh sì, insomma, c'è lì chi sta già ipotizzando tutto un giro di valzer, come si chiama in gergo. Prismian meno 2,16%, CNH Industrial meno 1,70%, Ferragamo meno 1,60%, Fiat meno 1,5%. Rapidamente su Fiat, sto confermato lo studio di un bond convertibile? Ma per ora sono solo indiscrezioni, si parla di un bond convertibile da 2 miliardi di dollari, cioè 1,5 miliardi di euro. Del resto l'unica certezza è quella che aveva detto lo stesso Marchionne, che la società ha bisogno di essere ripatrimonializzata, visto che l'indebitamento è salito a seguito della fusione con Chrysler. Le strade sono numerose, una è l'aumento di capitale, una è l'emissione di un bond convertibile. Anche ieri in Banca diceva che era l'opzione più consona, più probabile, oppure si parla anche di cessione di Ferrari magari alla stessa Exor o di quotazione della Maserati. Sì, temi appunto già circolati. Allora, andiamo ancora su titoli che però oggi meglio si sono comportati, oltre a quelli che ricordavo. A2A in primo luogo, più 2,90%, Monte dei Paschi più 2,60%, poi c'è Ubibanca più 1,70%. Popolare di Milano più 1,66%, ci sono i conti e il nuovo piano industriale, Mediobanca più 1,33%, la Pop Emilia Romagna più 1,22%, GTEC più 1% e World Duty Free più 1%, A2A e Monte dei Paschi. Sì, A2A si è messa in evidenza a metà giornata, ha fatto più 2,9%, una delle migliori performance, continua a beneficiare dei conti preliminari pubblicati la scorsa settimana che hanno visto un miglioramento dei margini e soprattutto una riduzione dell'indebitamento. Per quanto riguarda MPS, beneficia del fatto che oggi sappiamo è andata molto bene l'asta dei titoli di Stato, i rendimenti continuano a calare e ricordiamo anche che Banca MPS è una delle più esposte nei confronti dei titoli di Stato, ne ha in pancia ben oltre 20 miliardi, quindi ovviamente l'andamento dei titoli di Stato impatta positivamente. Poi c'è sempre anche l'appeal speculativo, è da vedere chi entrerà all'interno dell'azionariato della banca, di sicuro la fondazione sarà costretta a cedere. E noi restiamo sul tema dei titoli di Stato, perché nel ringraziare l'onore Micheli di Radio Cori Sole 24 Ore e darvi i migliori e peggiori in assoluto, Valore Italia XA più 58%, Aeroporto di Firenze più 22%, qui c'è l'acquisto di una società argentina del 33% di Aeroporto di Firenze e si attende l'OPA. Eleonora ancora in collegamento? No, si attende l'OPA, l'offerta pubblica su tutto il titolo, Banca Cassa di Risparmio di Genova più 12,33%, fronte opposto invece Sacom meno 6, Meridia meno 5,54%. Alle 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo iniziando a commentare la buona notizia, una delle più buone notizie degli ultimi tempi, lo dico per i conti dello Stato e per le casse degli italiani, il fatto che noi siamo riusciti a collocare in questi due giorni un numero molto alto di titoli di Stato, perché i bot semestrali di ieri erano 8,5 miliardi. E oggi abbiamo collocato altri 3 miliardi di titoli a 5 anni, di BTP a 5 anni e poi 4 miliardi di titoli a, di BTP a 10 anni, tutti con i rendimenti bassissimi. Nel caso dei bot a 6 mesi di ieri è il rendimento più basso da sempre, allo 0,45%, record storico. Oggi i BTP a 5 anni hanno toccato un minimo record al 2,14% di rendimento e anche i 4 miliardi di BTP a 10 anni collocati hanno avuto un rendimento minimo, il livello più basso dal 2005, al 3,42%. Mario Sprafico, direttore investimenti di Schroders Italia, di nuovo buonasera. Buonasera. Allora, mi faccia capire, la notizia è buona per i nostri conti, ma uno potrebbe dire che cosa è cambiato nell'affidabilità dell'Italia come paese, visto che appunto abbiamo avuto anche una crisi di governo. Non mi dica l'effetto Renzi, perché con tutto il bene che gli vogliamo ancora sarebbe quantomeno prematuro e vedremo poi se vi sarà un effetto Renzi. E allora, perché insomma le prospettive economiche le abbiamo raccontate qualche giorno fa e noi siamo l'unico paese dell'area euro che le ha avute riviste al ribasso, vedremo se poi vi saranno tutte le iniziative che ha annunciato Renzi, ma per ora la situazione è molto simile a quella di dicembre, o sbaglio? Assolutamente, non è cambiato molto, è cambiato nel corso dei giorni la percezione dell'Italia nei confronti dei mercati internazionali, o meglio, pur essendo tassi, che questi tassi delle aste ai minimi storici, sono pur sempre competitivi rispetto ai rendimenti degli altri paesi, perché non dimentichiamo che la Germania sta viaggiando a rendimenti intorno all'1,5% sul 10 anni, quindi si tratta pur sempre di rendimenti competitivi. Inoltre è cambiata la percezione dell'Europa, l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della crisi, un atteggiamento ormai che prosegue da molti mesi, quindi una maggiore flessibilità, minore rigidità, non siamo più attenti alle agenzie che escono con dichiarazioni a volte un po' campate in aria sulla sostenibilità dei conti dei vari paesi dell'Eurozona. E terzo, per ultimo, c'è un fattore molto importante che è un grosso ritorno di capitali nell'Eurozona e soprattutto in Italia dai paesi emergenti, cioè da quei paesi che fino a pochi mesi fa si pensava fossero la nuova era dei risparmi, quindi i paesi ad alta crescita, che io sono più di 20 anni che faccio questo mestiere, ma sono ormai 20 anni che li sento paesi emergenti, come sempre dettati all'interno di questo comparto dei mercati emergenti, che in questo momento stanno avendo delle notevoli difficoltà e quindi i soldi ritornano a casa, e questo sicuramente aiuta l'investimento nei paesi cosiddetti più sicuri. E quindi anche questo si lega a quanto accaduto un mese fa con le valute e con i flussi di capitale sui paesi emergenti, ricordiamo la lira turca, ma anche il rand sudafricano e quant'altro, cioè c'è ancora una voglia di andare su investimenti, chiamiamoli così, più prudenti, più, per quanto uno possa ritenere che l'area euro non sia così prudente, o almeno questa era l'idea un paio d'anni fa, lei dice c'è un flusso di liquidità che torna verso emissioni in euro, anche dell'Italia, e emissioni in dollari. Assolutamente, sono soldi che ritornano a casa, che per molto tempo sono stati un po' orientati a cercare altre mete proprio per la crisi dell'Eurozona. Uno dei grossi difetti e soprapericoli che ha creato la crisi dell'Eurozona, che ce la siamo un po' creata da soli in Europa, non di certo per colpa noi italiani, è stato proprio quello di aver creato un forte deflusso di capitali verso paesi che in quel momento erano e continuavano a ricevere capitali per economie in crescita e soprattutto una percezione diversa del sistema Stato. In questo momento il vento è cambiato, certo non è in alcuni paesi così esagerato come si sta avvenendo in termini di svalutazione valutaria, diciamo che si sta creando un nuovo ordine mondiale anche all'interno di questi paesi che non sono tutti uguali. Ecco, mi dica un'ultima cosa però, Sprefico, ma lei comprerebbe o consiglierebbe di comprare adesso, qui vengo all'altro fronte, cioè a noi come cittadini dello Stato Italia conviene ed è una buona notizia che i rendimenti siano così bassi, perché risparmiamo l'anno scorso 8 miliardi, quest'anno mi sembra di aver visto previsioni sui 3-4 miliardi di risparmi per tassi più bassi pagati sul debito. Però dico, come privato cittadino invece lei consiglierebbe un investimento in questo momento sui titoli di Stato italiani con questi rendimenti? Assolutamente sì, perché non ci sono alternative, il proprio punto è questo, se non si vuole rischiare non ci sono alternative, certo c'è da sperare che non ci aumentino il carico fiscale anche sui bot, che questo sarebbe veramente abbastanza deprimente. Ma mi sembra che su questo sia Del Rio che poi Renzi abbiano già ritracciato, come direste voi, e quindi si siano posti, no, anche perché come abbiamo spiegato in diretta il gettito per le casse dello Stato sarebbe veramente modesto, perché certo. L'80% dei possessori, come lei sa, trattano lordo, no? Sono lordisti, come si dice in gergo. Questo era proprio il motivo del messaggio, che era effettivamente inutile. Era inutile perché vai a tartassare, tra virgolette, solo il 20% che sono privati cittadini sul totale di quelli che hanno in mano i titoli di Stato italiani. E visto che l'ospite, mi dica un'ultima cosa, la borsa, allora, oggi sono alcune sedute che vediamo borse in altalena, ma lei che primavera si aspetta per i mercati? Ma io sono sostanzialmente positivo, comunque io credo che il mercato italiano può ancora recuperare un certo sconto rispetto agli altri mercati, certamente bisogna fare un po' di attenzione su quello che sta avvenendo al di là dell'Europa, quindi dicevo i mercati emergenti, perché possono essere in questo momento dei fattori ancora destabilizzanti, ma nel breve termine non vedo pericoli soprattutto per i mercati principali. Grazie al direttore investimenti di Shores Italia, che citava appunto i danni che ci eravamo fatti in casa indebolendo l'euro a suo tempo. La polemica l'abbiamo toccata molte volte, riguardava l'atteggiamento e l'approccio che abbiamo avuto nei confronti della Grecia, che ha creato il panico anche sugli altri paesi, qui andiamo indietro al 2012, un approccio fortemente voluto dalla Germania che poi ha dovuto correggere anche le sue posizioni. Però visto che spesso abbiamo criticato la Germania, come dicevo all'inizio, oggi fatemi dire onore al merito di Angela Merkel, che è andata alla Camera dei Comuni a Londra e non ha certo lisciato il pelo a chi la ospitava, anzi ha sorpreso molti osservatori dicendo all'Inghilterra non saremo certo noi a pagare i costi della permanenza della Gran Bretagna nell'Europa. Sì, ha detto infatti Angela Merkel, alcuni si aspettano che il mio discorso apra la strada per una riforma fondamentale dell'architettura europea che soddisfi i desideri dei britannici. Temo che rimarranno delusi. Leonardo Maisano, corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera a voi. Lei ha poi anche aggiunto, insomma, non sono qui per dire che la Gran Bretagna deve restare a ogni prezzo, ma gli europei non sono disposti a pagare qualunque prezzo per mantenere la Gran Bretagna in Europa. Come mai, secondo te, una Merkel così netta, anche tranchant? No, ecco, secondo me c'è stata, come dire, un'interpretazione in qualche modo scorretta delle parole di Angela Merkel. In realtà è stata molto più cauta del previsto. Ha immaginato che queste due situazioni, di lei che dice l'Europa non è disposta a pagare. Ecco, se voi vi aspettate che io dica una cosa del genere, non la dico, così come non dirò che siamo disposti a fare di tutto per tenere l'Inghilterra. Quindi, come dire, ha escluso le due posizioni più estreme e si è collocata in una posizione mediana. Ha lasciato intendere in qualche modo che una riforma dei trattati, cioè la riforma radicale sollecitata dall'Inghilterra, è ipotesi difficile. Ma anche se non è voluta entrare nel merito, però ha aperto su alcuni punti, ad esempio sussidiarietà, anche una certa disponibilità a rivedere il welfare per gli immigrati intracomunitari, riforma delle regole europee in modo che vengano, come dire, monitorate di continuo e eventualmente eliminate quelle che cedono troppo a una burocratizzazione. Quindi c'è stato, come dire, un'interpretazione soprattutto all'inizio, all'avvio del suo discorso, che dava appunto quell'intonazione più severa che in realtà non c'è stata. No, fai bene a precisarlo, perché appunto su questo si era creata anche un po' di maretta, diciamo, viste le agenzie che stavano, certo, che stavano arrivando. Tu che hai sentito la cosa, hai avuto l'impressione di un'Angela Merkel più disposta quindi a, non dico trattare, ma a cercare un compromesso? Sì, cioè Angela Merkel è, come dire, in una posizione di attesa. L'Inghilterra non ha ancora presentato, come dire, l'elenco delle sue richieste, quindi era anche, come dire, eccessivo aspettarsi che lei desse delle risposte. È venuta, ha tessuto l'elogio della storia e del ruolo dell'Inghilterra nei sistemi democratici e in Europa in particolare. Dopodiché ha detto: state con noi, lavorate con noi da dentro le istituzioni europee per cambiare e riformare l'Unione Europea. Su quali capitoli? Su questi capitoli, se vogliamo, minori che ho indicato, che sono capitoli che non implicano, chiaro, la revisione dei trattati. Questo è il messaggio che ha dato Angela Merkel. Se Cameron insisterà per avere la riforma dei trattati, secondo me andrà a sbattere. Grazie, importante la tua precisazione, grazie al corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Adesso il traffico e poi noi restiamo in Europa, perché oggi su Sole 24 Ore in prima pagina l'economista Roberto Perotti ha una proposta e dice in sostanza: rinunciamo ai fondi europei e usiamo questi soldi per ridurre il cuneo fiscale. Sono fondi, lo dico, sono 11 miliardi per la maggior parte per la coesione e per l'agricoltura, quindi già lì si sono drizzati i capelli alle regioni del sud, ma la spiegazione è un po' più articolata. Otto e 21 minuti, di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia. Allora, scrive oggi l'economista Roberto Perotti in prima pagina sul Sole 24 Ore, dicendo appunto: rinunciamo ai fondi europei e usiamo questi soldi per il cuneo fiscale. Il nuovo programma dell'Europa 2014-2020, che vale 7 anni, prevede che l'Italia riceverà dall'Unione Europea 33 miliardi di fondi di coesione, di cui 22 miliardi per sole 5 regioni, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Questi fondi vanno poi cofinanziati per un pari ammontare dallo Stato italiano, in totale almeno 70 miliardi, sono circa 10 miliardi l'anno. E se ho ben capito la proposta, rinunciando a questi soldi, tra quelli che, a cui rinunciamo e quelli che non dobbiamo più mettere perché sono chiaramente in cofinanziamento, vorrebbe dire avere 10 miliardi l'anno per 7 anni per ridurre il cuneo fiscale. Roberto Perotti, buonasera. Buonasera. La sentiamo un po' basso, chiedo di alzare un po' il volume ai tecnici in regia. Senta, questi soldi però, uno può obiettare, vanno per i fondi di coesione e quindi per dare una mano alle regioni più svantaggiate dell'Europa a raggiungere le altre, questo vuol dire la coesione, e per l'agricoltura. Non si rischia di penalizzare il Sud, e perché lei ritiene che questi soldi invece non generino già un effetto positivo sul ciclo economico? Io mi riferivo ai fondi della coesione specificamente, quindi non quelli agricoltura. Mm-hmm. Quelli della coesione dovrebbero essere circa 5 miliardi all'anno nei prossimi 7 anni, e con il cofinanziamento aggiunge altri 5, quindi 10 all'anno. Il fatto che si chiamino con fondi per la coesione non significa che servano per la coesione. Sappiamo tutti come vengono spesi, se vengono spesi. Sappiamo se fossero così necessari verrebbero spesi subito, invece sappiamo che quasi in tutti gli anni, in periodi passati, all'inizio non si sapeva come spendere, poi negli ultimi 2 anni di questi cicli di 7 anni ci si arrabatta per spenderli in qualche modo e si finisce sempre per spenderli nelle iniziative più fantasiose e più improbabili. Quindi lei dice non sono fondi che aiutano in realtà queste regioni. Devo dire la verità che noi spesso abbiamo raccontato di iniziative improbabili, ridicole, in alcuni casi anche criminali, per riuscire a spendere questi fondi, perché poi scade la data, allora tutte le amministrazioni locali cercano di produrre bandi per spendere questi soldi, tra l'altro anche con un dispendio di energie e risorse. Lì però, Perotti, c'è anche la incapacità degli amministratori locali, non è che sia sbagliato lo strumento. Però bisogna dire che anche quelli che vengono spesi alimentano un enorme sottobosco, intanto di questa la commistione fra politica ed economia, che sappiamo che è il male peggiore dell'Italia. Poi alimentano un'enorme macchina burocratica regionale, perché metà degli assessorati regionali secondo me non avrebbero ragione di esistere se non ci fossero queste iniziative. Se lei va a vedere nel dettaglio certe regioni, ci sono le stesse iniziative che vengono prese da 5 o 6 assessorati diversi, ognuno si gestisce il suo gruzzoletto, e molte di queste, anzi tutte queste, non sono mai state valutate, semplicemente si spendono perché i soldi ci sono. Io non dico di rinunciare a questi soldi, di buttarli nel mare, io dico invece di usarli per questo, usiamoli per qualcosa che sappiamo, siamo sicuri che fa bene, che vogliono tutti, che è quello di ridurre le tasse. Sì, e lei praticamente rinunciamo a questi soldi, a questi 10 miliardi l'anno, per ridurre di 10 miliardi l'anno il cuneo? Sì, essenzialmente noi diamo dei soldi all'Unione Europea, no? Poi una parte di questi ce li ridà con la destinazione dei fondi di coesione. Ecco. E poi noi dobbiamo cofinanziare, quindi ci ritornano, noi diamo ogni anno, l'ultimo anno abbiamo dato 16 miliardi, l'Unione Europea ce ne ha ridati 11, di questi 5 destinati alla coesione, no? Io, la mia proposta è rinunciamo a quei 5 della coesione, e quindi risparmiamo anche altri 5 del cofinanziamento, magari non tutti, magari continuiamo a spendere 4 miliardi, quindi in totale ne risparmiamo 6 ogni anno, e aiutiamo per ridurre il cuneo fiscale. L'Unione Europea non perde niente, perché non è che noi vogliamo fare come fece la Thatcher, che disse io voglio dare meno soldi all'Unione Europea. Il netto che noi diamo all'Unione Europea è lo stesso, il saldo è lo stesso, semplicemente. Sì, non è, capisco, il suo ragionamento è chiarissimo, certo, l'immagine di un'Italia che dice siccome li spendiamo male, non sappiamo come spenderli al sud, non ce li date proprio. Però ho capito, lei dice intanto non siamo obbligati a metterne altrettanti per il cofinanziamento, li possiamo mettere nel cuneo fiscale. Mi dica una cosa, sono d'accordo con chi scrive che delle volte questi fondi creano, appunto, alimentano le mafie, le commistioni, le tangenti. L'abbiamo raccontato con centinaia di casi di fiere, sagre, manifestazioni, consulenze, tutte praticamente inutili se non per chi ci guadagnava. Però vi dico una cosa, lei coordina il gruppo di lavoro della segreteria di Matteo Renzi, del Presidente del Consiglio, sulla spesa pubblica. Quindi non le chiederò, che non voglio mettere in imbarazzo su cosa state facendo, anche se un giorno ce lo racconterete, ma sul fronte, cioè sull'articolo che lei ha pubblicato oggi sui fondi di coesione, Renzi è d'accordo? Le dico la verità più totale, non ne ho mai parlato con lui, né con alcun membro della segreteria, né con alcun membro della commissione stessa. Come ho scritto nell'articolo, è una proposta esclusivamente a titolo personale. Io spero che sia d'accordo, però non posso assolutamente dirlo perché non ne ho mai parlato. E sulla spesa pubblica non mi vuol dire nulla, state ancora lavorando, eh? Sì, ma cioè, io non ho un grande ruolo, un ruolo abbastanza molto marginale, essere sincero, ma sì, ci sto lavorando, preferirei non parlare. No. Di rivoluzionario, non avrei niente di rivoluzionario da dire in ogni caso. No, ma guardi che le grandi rivoluzioni sono le cose più normali in questo paese, per cui che non facciate una rivoluzione mi sta bene. Non sia modesto, lei coordina il gruppo di lavoro nella segreteria di Matteo Renzi sulla spesa pubblica, ma capisco benissimo, non voglio metterla in imbarazzo, capisco benissimo la sua posizione. Vedo molti messaggi sul tema chi è a favore e chi contro. Allora, per carità, tutto si può discutere. Una cosa però la voglio dire: è vero che questi soldi noi li spendiamo male e delle volte con effetti addirittura viziosi invece che virtuosi. Quindi, se da qualche parte bisogna toccare, trovare delle risorse, valutiamo tutti gli ambiti possibili. Poi uno può non essere d'accordo con queste idee, ritenere che il danno sia peggiore del rimedio. Grazie a Roberto Perotti e da Sebastiano Berisoni è veramente tutto. Vi auguro una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.